it turns me on. Sentì lo schiocco di una lattina che si apriva e poi la voce della donna che gli chiedeva se lui era sempre stato così. Così come? Così tutto a posto, disse la donna. L'uomo sorrise. Poi disse, no. Allora la donna volle sapere quando aveva iniziato ad esserlo, se se lo ricordava. E fu per questa ragione che lui, senza spostarsi dalla finestra, disse che se lo ricordava benissimo. Aveva 13 anni ed era successo tutto in una notte. Disse che lì si era spezzato tutto. Davanti alla sua casa che bruciava, in quella notte, si era spezzato tutto. Davanti a quel fuoco senza senso. Avevo 13 anni, ripeté. Poi ho incontrato un uomo che mi ha insegnato a mettere le cose a posto. E da allora non ho mai smesso di pensare che non abbiamo altro compito se non quello. C'è sempre una casa da ricostruire, aggiunse. Ed è un lavoro lungo. Avevo 13 anni, ripeté. Poi ho incontrato un uomo che mi ha insegnato a mettere le cose a posto. E da allora non ho mai smesso di pensare che non abbiamo altro compito se non quello. C'è sempre una casa da ricostruire, aggiunse. Ed è un lavoro lungo, per cui ci vuole molta pazienza. La donna gli disse ancora una volta di andarsi a sedere sul letto, ma lui non rispose e, come inseguendo dei suoi pensieri, raccontò che suo padre ogni sera ascoltava la radio scolandosi una bottiglia di vino fino alla fine. Si sedeva al tavolo, posava la sua pistola davanti a sé e di fianco la bottiglia. Beveva a canna, lentamente, e non lo si poteva disturbare mentre lo faceva. Per nessuna ragione. La pistola non la toccava mai. Gli piaceva che stesse lì, solo quello. Disse che anche quella notte era andato tutto esattamente così, la notte in cui il fuoco si era preso tutto. Poi chiese alla donna se lei ce l'aveva una casa. Quattro muri e un letto, certo. Non in quel senso, una casa veramente, nella sua testa. Non sono mica sicura di capire. Qualcosa che lei sta costruendo. Il suo compito. Ah, quello. Sì, quello. Gliel'ho detto. Non finisco mai niente. Le è accaduto almeno di cominciare, una volta. Forse una. Dov'era? Di fianco a un uomo. È un buon punto di partenza. Ma... il padre del bambino. Quello. Figurarsi. Quello era un gran coglione. Quello al momento buono è sparito. Mi spiace. Neanche un lavoro aveva. O forse sì, ma una cosa tipo ladro di macchine. E l'altro? Chi? L'uomo della casa. Beh, quello aveva qualcosa di speciale. Tutto. C'è solo lui al mondo. Cioè, non c'è nessuno come lui. Dov'è adesso? Non con me. Perché? Oh, lasci perdere. Non l'amava. Oh, sì che mi amava. E allora? Abbiamo fatto un sacco di casino. Tipo? Non capirebbe. Perché? Hai idea di cosa significhi essere pazzo di qualcuno? Temo di no. Ecco. Provi a spiegarmi. Scherza! Ci provi. Mi dica anche una cosa soltanto. Perché? Non ho altro da fare. Devo aspettare che le scarpe asciughino? Questa è una buona risposta. Cos'è che vuole sapere esattamente? Cosa vuol dire? Essere pazzo di qualcuno? Non lo sa. No. Alla donna venne soltanto in mente che capisce tutti i film d'amore. Le capisci veramente. Ma anche quella non era facile da spiegare. E suonava un po' idiota. Senza volerlo, le tornarono in mente tante scene che aveva vissuto al fianco dell'uomo che amava, o lontano da lui, che poi era la stessa cosa. Lo era da un sacco di tempo. Di solito cercava di non pensarci, ma lì le tornarono in mente, in particolare si ricordò di una delle ultime volte in cui si erano lasciati e di quello che aveva capito in quell'istante. Era seduta al tavolino di un caffè e lui se n'era appena andato. Quel che aveva capito con certezza assoluta era che vivere senza di lui sarebbe stato, per sempre, la sua occupazione fondamentale. E che da quel momento le cose avrebbero avuto ogni volta un'ombra per lei, un'ombra in più, perfino nel buio, e forse soprattutto nel buio. Si chiese se poteva andare come spiegazione di cosa significa essere pazzo di qualcuno. Ma alzando lo sguardo verso l'uomo in piedi davanti alla finestra, lì, con la sua valigetta in mano, lo vide così elementare e definitivo che le sembrò totalmente insensato cercare di spiegare. Tutto sommato non aveva neanche voglia di farlo. Né era lì per quello. Così sorrise di un sorriso triste, che non era da lei, e disse che no, era meglio lasciar perdere. Sia gentile, disse all'uomo. Non parliamo più di me. Come preferisce, disse l'uomo. La donna aprì un'altra lattina di birra e rimase in silenzio per un po'. Poi chiese come diavolo si finiva a costruire bilance. Non le interessava veramente, ma voleva farla finita con quel silenzio, o forse con il ricordo dell'uomo che amava. Per questo chiese come si finisce a vendere bilance. All'uomo dovette parere una domanda importante perché si mise a ricordare quando gli avevano insegnato la prima volta a misurare. A misurare bene. Gli era piaciuto quel che si faceva con le mani. A misurare bene. Probabilmente era lì che si era legato all'idea che mancavano gli strumenti per misurare. E questo era l'inizio di qualsiasi problema. Doveva misurare due vernici e mescolarle, misurare con esattezza quanta ce ne voleva di una e quanta dell'altra. Se facevi le cose per bene, il pennello sarebbe scivolato sul legno e la tinta sarebbe stata quella giusta nella luce del mattino e un po' più calda in quella del tramonto. Gli sarebbe piaciuto spiegare come questo avesse a che fare con il compito che abbiamo tutti di ricostruire la casa e in certo modo ne fosse il principio. L'aurora. Ma mentre cercava le parole abbassò lo sguardo verso la strada e vide che tre auto della polizia si erano fermate davanti all'ingresso dell'albergo. Le luci blu lampeggianti. Un poliziotto stava in piedi, appoggiato a una portiera aperta e parlava in una radio. L'uomo smise di parlare e si voltò verso la donna. Là, nel letto, solo in quel momento si accorse dei suoi occhi, che aveva chiari, ma grigi, come di lupo, e capì dove iniziava la sua bellezza. «La ascolto», disse la donna. L'uomo rimase a fissarla. Quegli occhi. Ma alla fine tornò a guardare dalla finestra e riprese a ricordare i due barattoli di vernice e il liquido denso che scendeva in un misurino di vetro. «Ci si metteva un po' a imparare», disse alla fine. «Lei è strano», disse la donna. «Venga qui». «No». «Perché?» «La notte è finita. Non starà ancora a pensare a quel dannato appuntamento. L'avranno già data per morto». «Non è quello». «E allora? Ha paura che la becchino? Domani mattina? Con una donna in abito da sera? Le ho detto che sono in grado di sparire da qui senza che neanche se ne accorgano». «Davvero?» «Certo. Forse dovrebbe farlo adesso». «Non ci penso nemmeno. E perché?» «Mi creda. Lo faccia adesso». «Che cavolo dice?» «Niente. Anzi, sa cosa faccio? Qui ci vuole una bella colazione in camera per festeggiare. Metta giù quella cornetta. Qual è il numero della reception? Non lo faccia, la prego. 9. Ecco, è sempre il... Metta giù quella cornetta! Stia calmo. Cosa le prende? La metta giù immediatamente! D'accordo. D'accordo. Ecco fatto. Mi scusi. Cosa le ha preso? Non era una buona idea. Sì che lo era. Mi creda, non lo era. Mica ne chiedevo 2, ne chiedevo 1. Ce la dividevamo e quando la portavano su mi andavo a nascondere in bagno. L'uomo sembrò per un attimo pensare che in effetti avrebbe potuto anche funzionare, ma in realtà non era quello che stava pensando. Fece per dire una cosa, quando bussarono alla porta, 3 volte. Dal corridoio una voce disse «Polizia della contea!» Lo disse senza enfasi, ma forte, senza tentennamenti. L'uomo rimase un istante in silenzio. Poi disse a voce alta «Arrivo!» Si voltò a guardare la donna. Stava immobile. Le lenzuola che le erano scivolate fino ai fianchi. L'uomo si tolse la giacca, si avvicinò al letto e la porse alla donna. «Si copra», disse. Bussarono ancora una volta alla porta. La donna si infilò la giacca, guardò l'uomo e disse piano «Non deve preoccuparsi». L'uomo fece cenno di no con la testa. Poi disse a voce alta «Arrivo!» e si diresse verso la porta. La donna infilò le mani nelle tasche della giacca e con la mano destra sentì una pistola, la strinse. L'uomo aprì la porta. «Polizia della contea!» disse il poliziotto, mostrando un distintivo. L'altra mano la teneva appoggiata al calcio di una pistola che gli pendeva dal cinturone. «È lei il signor Malcolm Webster?» chiese il poliziotto. «Sì, sono io», disse l'uomo. «Devo chiederle di seguirmi», disse il poliziotto. Poi si voltò verso il letto e non parve sorpreso di trovarci la donna sotto le coperte. «La pistola?» le chiese. «Tutto a posto», rispose la donna. «Ce l'ho io». Il poliziotto fece un cenno di assenso con la testa. Tornò a voltarsi verso l'uomo. «Andiamo», disse. Les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde. Les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoiles, qui vous regardera. Pour la do, la do, la do, la do. Les étoiles, les étoiles, si seulement je savais, dites-moi étoiles, de qui obtenez-vous la lumière?